scroccando foto. Grazie. Non mi capisce. Ok, ma la foto vabbè, la vedete capita. Stiamo scroccando foto. E sta registrando. Ah, ecco. Beh, guardate che prendo anche dietro la fontana. Grazie. Grazie. Ne faccio un'altra, eh? Sì. Controllate. Che ce l'avevo fatta di fronte alla facciata. Ce l'hanno fatta. Abbiamo... stiamo scroccando. Già scroccata, capito? Ma comunque è venuta bene. Bene? Bella. Benissimo. Altro? Grazie. No, grazie. Gentilissimo. Arrivederci.